Buongiorno. Buongiorno e buona domenica. Benvenuti alla penultima delle lezioni di jazz di questa quinta stagione. Vi ricordo che l'ultima ci sarà domenica prossima, la dedichiamo a Keith Jarrett. E poi niente, ci auguriamo naturalmente che ci possa essere anche una sesta stagione. La lezione, addirittura l'applauso prima della sesta stagione, fantastico. Posso anche non venire a questo punto, voglio dire. Ah no, allora, oggi parliamo di art bop. In genere siamo abituati a lamentarci delle crisi del jazz di oggi, che poca gente ascolta il jazz, che ci sono pochi locali, poca musica. In realtà il jazz ha vissuto molte volte dei momenti di crisi, dei momenti di difficoltà anche economica molto seria, e uno di questi momenti chiave è stata la fine degli anni 40, quando una scena vivacissima che era quella della 52esima strada di New York, dei locali dove si faceva jazz, dei club e per certi versi anche delle sale da ballo, è praticamente collassata sotto il peso di una crisi economica che ha attanagliato gli Stati Uniti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo vuol dire locali che chiudono, locali storici che diventano bingo o peggio ancora piccoli squallidi luoghi di spogliarello, dove peraltro i musicisti di jazz sono costretti comunque ad andare a suonare per accompagnare tutt'altro tipo di spettacoli perché devono pur vivere, e quindi una scena che si impoverisce profondamente, ma si impoverisce anche perché c'è sempre meno pubblico. In particolare i giovani afroamericani non sono più interessati al jazz come lo erano negli anni 30, ma sono interessati a una nuova musica che è il rhythm and blues, che è molto più facile da ascoltare. Soprattutto si può ballare, cosa che il nuovo jazz non consente, il bebop, la musica di Charlie Parker non può essere certo facilmente ballata in una sala da ballo, una musica d'ascolto, da ascoltare seduti in un club. E quindi viene meno anche il pubblico che alimenta questo tipo di economia. Tant'è che noi assistiamo a una specie di diaspora di musicisti dalla costa orientale verso la costa occidentale, cioè verso Los Angeles e San Francisco, dove invece ci sono le condizioni economiche, ambientali, strutturali, club, soldi che girano, per poter lavorare. E la scena del jazz praticamente si trasferisce sulla costa occidentale e nasce il cosiddetto West Coast Jazz. Questo West Coast Jazz però è al centro di molte polemiche, perché sembra, anche se oggi ci rendiamo conto che non è vero, ma all'epoca era percepita come una scena principalmente bianca, di musicisti bianchi che non sanno suonare il blues, che non hanno una conoscenza profonda della tradizione nera. Oggi sappiamo che questa visione è quantomeno parziale, ma all'epoca funzionava così. Quello che comunque ci interessa è che a un certo punto, tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50, New York, che era stata la capitale del jazz, perde di centralità. E questa centralità, questa perdita di centralità, la notiamo nel fatto che alcuni dei musicisti più importanti che si affermeranno nel decennio successivo, negli anni 50, non vengono da New York, ma vengono da città di provincia o comunque dislocate in altre aree che fino a quel momento erano state abbastanza secondarie nel mondo del jazz. In particolare sono quelle che vedete lì, che sono tra l'altro anche dei centri importanti in cui si sviluppa il rhythm and blues. Non ho messo San Francisco e Los Angeles, la California è importantissima per il rhythm and blues, ma per il nostro discorso quell'area è meno interessante. C'è invece il Texas, molto più a sud, perché dal Texas viene tutta una scuola di sassofonisti tenori, dal suono molto ampio, molto robusto, molto aggressivo, che saranno caratteristici poi del rhythm and blues. Ecco, tra l'altro, il sax tenore, diremo qualcosa dopo, ma mentre il bebop è caratterizzato soprattutto dal suono del sax contralto, Charlie Parker, no? Il personaggio che ha dato un'impronta decisiva al bebop, nei primi anni 50 assistiamo invece all'emergere di tutta una scuola di sassofonisti tenori con un suono più pieno, più scuro, fortemente intriso di blues. Perché? Proprio perché nei centri che vedete nella mappa il rhythm and blues si suona soprattutto col sax tenore, cioè con uno strumento che ha un suono più aggressivo, più adatto per questa musica potente, da ballo, trascinante e per certi versi anche urlata, molto, molto viscerale, e il sax tenore si presta molto bene a questo tipo di sonorità. Ora, questa scena è talmente ricca che pensate, ho pensato di farvi vedere una lista di musicisti che vengono fondamentali nella storia del jazz. Provo a usare al solito il cellulare come una specie di telecomando. Eccoci. A farvi vedere una lista dei musicisti che vengono da queste città. Per esempio, guardate Chicago. Johnny Griffin, Clifford Jordan, Charlie Davis, John Gilmour, il grande sax tenore dell'orchestra di Sun Ra, era una città che ha sfornato un sacco di sassofonisti tenori. Se guardate Philadelphia, Philadelphia è incredibile, è uno dei centri da cui vengono fuori i più grandi musicisti degli anni 50 e 60. Tutta la scuola di organisti soul viene da Philadelphia. Guardate i sassofonisti. Stan Getz, Jimmy Heath, Coltrane, che era nato in North Carolina ma ha cresciuto a Philadelphia. Benny Golson, ne parleremo, uno dei padri dell'art bop. Archie Shepp. I pianisti chiave degli anni 50 vengono da Philadelphia. I bassisti. Guardate per esempio Jimmy Garrison, che è stato il bassista di John Coltrane, viene da Philadelphia. I trombettisti più importanti dell'art bop vengono tutta da quell'area. Magari non tutti nascono a Filadelfia, ma tutti crescono lì. Voi direte, ma perché proprio Filadelfia? Perché tra l'altro non solo c'era una grande scuola di rhythm and blues, ma c'erano anche degli ottimi insegnanti di musica. Alcuni di questi condividono gli stessi insegnanti. Batteristi come Philly, appunto di Filadelfia, Joe Jones e Albert Heath. Poi c'è un'altra città importante, Detroit. Guardate i sassofonisti che vengono fuori da Detroit. Joe Anderson, Frank Foster, Yusef Latif, bianchi e neri, anche bianchi come Pepper Adams. I bassisti, Paul Chambers. Già così, guardate che mezzo gruppo di Miles Davis degli anni 50 è fatto così, dal sassofonista di Philadelphia John Coltrane, dal bassista di Detroit Paul Chambers, dal batterista di Philadelphia Philly Joe Jones. I trombonisti, pianisti come Tommy Flanagan e Barry Harris, tutti i grandi maestri degli anni 50. Tutti i batteristi che suoneranno con Horace Silver vengono tutti da Detroit. E poi trombettisti, chitarristi, Milton Jackson, le migliori cantanti dell'epoca. Non lontano da Detroit c'è una cittadina che si chiama Pontiac, che ha dato i natali a una delle famiglie più incredibili della storia del jazz, la famiglia Jones, dove sono venuti fuori Ted Jones, Elvin Jones e Hank Jones. Non male. Questo tanto per darvi un'idea. Questi musicisti pian piano, all'inizio degli anni 50, cominciano anche a confluire a New York. Per esempio Lucky Thompson, per esempio Percy Heath. E a New York, all'inizio degli anni 50, pian piano questa scena si rimette in moto dopo questo deserto della fine degli anni 40. E noi abbiamo degli indizi. Per esempio in alcuni dischi che qui non ascolteremo, tra l'altro c'è un problema con l'ascolto dell'art bop, abbiamo brani molto lunghi sempre, perché questo è anche il periodo in cui viene fuori l'LP, e siccome noi abbiamo qui il tempo limitato non potremo ascoltare tutto quello che vogliamo ascoltare o non faremo sempre ascolti integrali. Però voglio segnalarvi almeno l'ascolto di Walkin, che viene da questo famoso disco dei Miles Davis All Stars, che è un disco, è un brano in particolare, nel quale si percepisce, un brano molto famoso anche per questo, non ve lo faccio sentire, nel quale si percepisce questa cosa nuova che comincia ad emergere a New York grazie ai musicisti che vengono dalla provincia. Che cosa? Un modo di suonare il blues più deciso, più aggressivo, perfino semplificato rispetto al bebop. Il bebop è una musica complicata, complessa, perfino nevrotica. Pensate a Charlie Parker. Qui invece cominciamo a sentire una musica più vicina a dei ritmi da ballo, guarda caso, l'influenza del rhythm and blues, dove il sax tenore ha un ruolo importante. In questo disco c'è Lucky Thompson, che veniva da Detroit. Un andamento ritmico meno nervoso, meno frammentato e più più semplificato e potente soprattutto. Tant'è vero che pian piano comincia a emergere una formula, che questo è un bebop, certo, l'eredità è quella del bebop degli anni 40, ma più hard, più duro, meno spigoloso, più aggressivo e quindi più hard. E dominano i musicisti neri, perché vengono dai ghetti dove hanno suonato rhythm and blues, dai ghetti di Detroit, dalle città industriali, dai ghetti di Filadelfia, dai ghetti di Chicago o in parte dal Texas. Questa visione di un jazz nero opposto a un jazz bianco sarà una delle polarizzazioni degli anni 50. La West Coast è bianca, la East Coast, il jazz hard bop, è nero. Ed essendo nero, questa è la retorica, è più radicato nel blues, è più radicato in una visceralità nera. Le cose non sono proprio così. La West Coast era piena di musicisti neri, la East Coast aveva dei grandi musicisti bianchi molto influenti, un nome su tutti, Lenny Tristano, e quindi le cose erano molto più sfumate. Ma ci fu una specie di polarizzazione ideologica, era come se New York dicesse, ecco, torniamo protagonisti sulla scena, e lo facciamo nel nome di questa musica così possente. Un altro momento chiave di questa scena è un concerto che si tenne al Birdland a New York il 21 febbraio 1954. Si era creato un gruppo cooperativo, non so se riuscite a leggere i nomi in basso a destra, in particolare con il pianista Horace Silver, il terzo nome, e il batterista Art Blakey. Avevano messo insieme un gruppo che si chiamavano i Jazz Messengers, all'epoca era ancora chiamato Art Blakey Quintetti, i messaggeri del jazz. Registrarono un concerto molto lungo al Birdland il 21 febbraio del 54, che probabilmente è il primo concerto ufficiale live della storia del jazz. Cioè la Blue Note portò un piccolo studio mobile dentro questo locale, il Birdland, e registrò la serata e pubblicò, non come un disco pirata, ma come un disco ufficiale, il concerto con il titolo A Night at Birdland in due volumi. C'erano ancora un sax contralto, Lou Donaldson, nello stile di Charlie Parker, e soprattutto un trombettista formidabile che veniva da Filadelfia, che era Clifford Brown. Vi faccio sentire un pezzettino, proprio il primo minuto e mezzo, di A Night in Tunisia, un pezzo che conosciamo tutti, un classico del bebop, per sentire questo approccio più duro, più hard, dato soprattutto dalla batteria molto aggressiva, quasi africaneggiante, di Art Blakey. Un accenno per farvi sentire che razza di energia c'è in questa musica. Il disco va ascoltato per intero, sia il volume 1 sia il volume 2, oggi sono in un unico CD se non ricordo male. Vi dà l'idea proprio di questo approccio molto, molto potente. Ora, in quell'occasione, in una di queste occasioni, si incontrarono anche appunto il trombettista Clifford Brown e il batterista Max Roach, che decisero di mettere su insieme un gruppo che è probabilmente il primo gruppo stabile, vero, dell'hard bop. Solo che lo misero insieme non a New York, ma in un posto economicamente più favorevole, in California. Quindi il primo gruppo di hard bop, vero, stabile, nasce in California. Il gruppo purtroppo ebbe una durata molto breve, dal 54 al 56, perché come sapete l'abbiamo raccontato in una passata lezione di jazz, mi pare un paio d'anni fa, dedicata a tre sfortunati trombettisti grandissimi del jazz. Clifford Brown morì in un incidente d'auto nel 1956 a soli 26 anni. Ma in quei due anni il gruppo ha lasciato un segno molto profondo. Noi adesso ascoltiamo un brano celebre di quel quintetto, che era formato dal sassofonista, guarda caso californiano, Harold Land. Al pianoforte c'era il fratello di Bud Powell, Richie Powell, purtroppo anche lui morirà in quel tragico incidente d'auto insieme a sua moglie, il bassista George Morrow e Max Roach. C'è un brano bellissimo scritto dallo stesso Clifford Brown, molto famoso, Joy Spring, che dà un altro aspetto dell'hard bop che stava emergendo in quegli anni. Il fatto che i temi hanno un disegno molto nitido, molto chiaro, non sono spigolosi e aspri come quelli di Charlie Parker e di Dizzy Gillespie. Hanno invece una specie di semplicità lirica internamente. E non è necessario che la musica debba essere per forza spinta come quella ai Night in Tunisia che abbiamo sentito un attimo fa. Può essere anche molto più morbida come in questo Joy Spring. C'è una specie di fuoco interno che è dato soprattutto dal virtuosismo pazzesco di Clifford Brown. Non torniamo qui su Clifford Brown perché abbiamo detto, gli abbiamo già dedicato una lezione che potete recuperare attraverso il podcast, ma va ricordato che Clifford Brown è stato un profondo innovatore della tromba perché ha portato l'espressività e soprattutto la tecnica dello strumento ad un livello superiore. Questo è Joy Spring. Thank you. formato formale dell'art bop non è molto diverso dal bebop, come si sente in questo brano. C'è il tema all'inizio, una serie di assoli che la nuova tecnologia dell'LP consente di poter registrare in forme molto più ampliate, non solo uno o due ritornelli, ma quattro, cinque. Qui, siccome il tempo è lento, ognuno suona un paio di ritornelli, non, niente di più, ma l'LP comunque consente di incamerare molta più musica, e poi la ripresa del tema alla fine. In realtà, come sentire, come vedremo meglio dopo, le cose non sono così semplici, perché ad esempio c'è un'introduzione, la ritmica si ferma, riparte, ci sono delle figurazioni che fanno tutti insieme, cioè c'è un'attenzione al disegno compositivo che non è così scontata. Di certo una caratteristica fondamentale è questo suono che avete sentito della tromba e del sax tenore, che suonano praticamente all'unisono, in realtà in ottava, la tromba nel registro acuto, il sax tenore fa le stesse cose nel registro grave. Questo è un suono tipico dell'art bop. Ai tempi di Charlie Parker sarebbero stati la tromba e il sax alto, che sono molto più vicini, quindi messi insieme hanno un suono più tagliente. Qui c'è un suono più pieno, perché il sax tenore sotto sostiene la tromba in maniera più robusta. Ora, il quintetto di Clifford Brown e Max Roach, come vi dicevo, ebbe purtroppo una vita molto breve a causa della tragedia che spezzò la vita di Clifford Brown, Richie Powell e sua moglie. Ma l'art bop è legato a tutta un'altra serie di figure fondamentali. Forse la più importante di tutte è il batterista Art Blakey, a cui dedicheremo una particolare attenzione, anche perché a me piace di più degli altri e quindi, come dire, scontate la mia passione. Anche che da ragazzino ero una specie di groupie di arte, cioè non vestito da donna, ma insomma correvo dietro ad ogni concerto di Art Blakey. Personaggio simpaticissimo, molto particolare. Blakey aveva questo gruppo con Horace Silver che si chiamavano i Jazz Messengers, poi a un certo punto i due si separarono e il marchio Messaggeri del Jazz, Jazz Messengers, è rimasto allo stesso Blakey, un batterista eccezionale, una vita da operaio che poi è diventato appunto musicista. Blakey è stato definito anche l'università del jazz. Perché l'università del jazz? Perché è stato forse il più grande talent scout della storia del jazz. Uno dei più grandi talent scout, direi, del Novecento. Perché tutti i più grandi musicisti di jazz sono passati attraverso i suoi gruppi. Vi faccio una lista. Questi sono i trombettisti che lui ha scoperto. Da Clifford Brown a Wynton Marsalis. Marsalis è una scoperta di Art Blakey, eh? A Terence Blanchard, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Chuck Mangione, Lee Morgan, Donald Byrd, Kenny Dorham, tutti. Questi sono i sassofonisti, perché non mi funziona, che lui ha scoperto. Sì, sì, sì. Da Hank Mobley, Jackie McLean, Johnny Griffin, Benny Golson, Wayne Shorter, una scoperta di Art Blakey. Bobby Watson in tempi recenti, Branford Marsalis, Kenny Garrett. Impressionante, eh? Guardate i pianisti. Cedar Walton. Jarrett è uscito dall'anonimato perché l'ha scelto Art Blakey. Ne parleremo la prossima volta. Mulgrew Miller, lo stesso Horace Silver. I bassisti che hanno suonato con lui. Tutti i grandi bassisti neri, Reggie Workman, Wilbur Ware. E poi ci sono anche i trombonisti. Robin Eubanks, Curtis Fuller, anche il chitarrista Kevin Eubanks, fratello che oggi suona con Dave Holland. Tutta gente uscita dall'università, chiamiamola così, di Art Blakey. E in effetti la lista è piuttosto affascinante. Negli anni 50 Blakey aveva un quintetto, ovviamente, tromba, sax tenore, piano, basso, batteria, e si sceglieva lui stesso un direttore musicale, cioè uno di questi cinque musicisti, anzi quattro esclusi lui, che facesse un po' da leader musicale. Lui decideva il carattere del gruppo, ma la composizione, gli arrangiamenti, le scalette, le decideva un cosiddetto direttore musicale. Uno dei più importanti direttori musicali che Blakey abbia avuto è il sassofonista Benny Golson, che è uno dei pochi ancora viventi di quella stagione, insieme a Sonny Rollins, nato nel 1929. Benny Golson è stato non solo un grande sax tenore, ma un compositore eccezionale. Lì c'è una brevissima lista di 5 pezzi che avrete tutti più o meno sentito, che sono tra i suoi massimi capolavori. Ora, di questi pezzi io però vorrei farvene sentire almeno uno per intero, anche per darvi l'idea della connessione fra il rhythm and blues e l'hard bop, e anche il modo in cui, perché ne parleremo meglio alla fine, in cui il blues viene utilizzato in modo creativo, in modo diverso. C'è un legame molto forte con la tradizione del blues nell'hard bop, ma questo legame viene continuamente rinnovato in modi diversi. Golson, per esempio, in un disco entrato nella storia che si chiama Morning del 1958, per i Jazz Messengers, compone un pezzo che si chiama Blues March. Questi sono i musicisti che vedete elencati da destra verso sinistra. Jimmy Merritt, il bassista, Lee Morgan, trombettista, aveva 20 anni all'epoca, pensate. Bobby Timmons, su cui torneremo, lo stesso Benny Golson e Art Blakey. Blues March è uno dei pezzi più famosi della storia del jazz, è il tentativo riuscitissimo di mettere insieme il tempo di marcia, proprio una marcia da banda, con il blues. E questo è il risultato, anche per farvi sentire la potenza della batteria di Art Blakey. Come un blues normale, poi cambia. E qui cambia. Va piano, cresce. Mai in swing, rimane il tempo di marcia. Quando Benny Golson alla fine degli anni 50 lasciò il gruppo, il ruolo di direttore musicale fu preso da un altro giovane sassofonista, molto promettente, con grandi doti di compositore, un certo Wayne Shorter. E Shorter lavorò per un po' nel quintetto che vedete, lo stesso che vedete, ma con Shorter al posto di Benny Golson. Poi nei primi anni 60 il gruppo si allargò ad un tipo di suono inusuale per l'art bop, un sestetto, cioè quel gruppo che vedete, sax, tenore, tromba, ma in più col trombone, cosa che dava una ricchezza, una densità sonora e armonica alla musica inconsueta per quel genere. Questo sestetto, di cui qui vedete una foto, se possiamo abbassare meglio la luce perché voglio farvi vedere cosa c'è scritto in basso a sinistra, Gabinetti. Questa foto è stata fatta, è incredibile, l'ho trovata su Google, a Sanremo, e il sestetto di Art Blakey immortalato sotto davanti ai gabinetti della stazione di Sanremo. Non ho capito se fu una scelta dei musicisti, del fotografo, una presa per i fondelli. Comunque questo eccezionale sestetto è uno dei gruppi più belli, più formidabili dell'art bop. Francamente trovo che sia anche meglio del quintetto che abbiamo ascoltato poc'anzi. Le due menti vere del gruppo erano Wayne Shorter, il secondo da sinistra, e il pianista Cedar Walton, un altro ancora che vivente insieme a Shorter di quella stagione, il primo a sinistra. Walton ha scritto insieme a Shorter una serie di pezzi bellissimi per questo sestetto, di cui esistono sia dischi in studio sia dischi dal vivo, in cui si apprezza questo suono così denso, così ricco, inusuale per l'art bop, perché avete sentito che nell'art bop principalmente ci sono questi unisoni, le melodie sono ben definite, date dall'unisono tra la tromba e il sax. Invece, avendo tre strumenti, uno può armonizzare, può allargare il suono, e questo è quello che succede nel sestetto di Art Blakey dei primi anni 60. Anche qui purtroppo i brani sono sempre tutti molto lunghi, quindi vado con l'ascolto parziale di un pezzo bellissimo di Cedar Walton del 1962 che si chiama Ugetsu, che è una parola giapponese che vuol dire fantasia, e più tardi il brano sarà intitolato Fantasia in Re, Fantasy in D. Sentite che meraviglia, il tema è di Cedar Walton, sentiamo l'assolo di Shorter iniziale come assaggio del pezzo. We sincerely hope you enjoy. E dal vivo al Birdland. Ugetsu, Japanese, it means fantasy. Salziamo un po' il volume. Ecco il tema. We'll be right back. fermiamo qui, il brano poi dura quasi 10 minuti, è bellissimo. Avrete notato, innanzitutto voglio farvi osservare come Blakey aveva già trovato un successore, in un certo senso, di Clifford Brown, cioè Freddie Hubbard, che sarà un altro trombettista che porterà avanti il linguaggio della tromba, come avete sentito, sulla scorta della lezione di Clifford Brown. L'altra cosa che volevo farvi notare è il clima espressivo che abbiamo di tutti i pezzi che abbiamo ascoltato fin qui. L'art bop è una musica gioiosa, è un jazz solare, aperto, vitale, energico. L'angoscia e la tristezza sono bandite dall'art bop, non ci sono. Potete trovare dei brani più sommessi, più lirici come Joy Spring, delle ballad più pensose, meditative, ma senza nuvole, senza ombre. E questa è una delle cose che rende sempre molto piacevole l'incontro con questa musica, perché è una musica che ti apre il cuore, non solo, voglio dire un po' in maniera un po' banale, forse retorica, però pezzi come questo hanno proprio questa capacità di essere molto aperti, positivi, comunicativi, e questa è una, secondo me, delle cose che ha fatto la fortuna di questa musica, che ancora oggi, come vedremo, è uno dei, diciamo, degli aspetti centrali del repertorio del jazz. Ma poi, se parliamo di gioia e allegria, in effetti dovremmo parlare anzitutto di Horace Silver, che purtroppo è scomparso neanche un anno e mezzo fa, che è stato quello che io ho definito l'architetto dell'art bop, perché in tutti questi brani, certo, gli assoli, i brani sono molto lunghi perché gli assoli sono lunghi, l'improvvisazione è la cosa più importante dell'art bop, però avete visto nell'esempio di Benny Golson, avete sentito nella sottigliezza della scrittura di Cedar Walton, la composizione è altrettanto importante. E Horace Silver è stato pianista, ma soprattutto uno dei grandi compositori dell'art bop. L'art bop può essere un genere in cui il lavoro sulla composizione può essere estremamente raffinato. Un primo aspetto che voglio mostrarvi, andando finalmente un po' più in dettaglio nella musica, è proprio l'ispirazione melodica e armonica. Silver ha scritto una grande quantità di pezzi, uno più bello dell'altro. In genere io, per esempio, quando faccio lezione al conservatorio, stordisco gli allievi suonando, che so, 6-7 temi di Silver uno dopo l'altro. Questi rimangono così perché sono veramente impressionanti. Io voglio farvi sentire solo il tema, perché il pezzo è molto lungo, della composizione più famosa di Horace Silver, Nika's Dream, dedicato alla baronessa Pannonica, a casa della quale un anno prima era morto Charlie Parker. Questa è la formazione che ascoltate quando Silver e Blakey erano ancora insieme nei Jazz Messengers, e man mano che ascoltiamo il tema, che è di una bellezza straordinaria, vi mostro anche con quanta sottigliezza Silver costruisce tutta l'architettura melodica e formale del pezzo, perché non c'è solo il tema, c'è un'introduzione, poi c'è il tema molto lungo, molto molto esteso, c'è una transizione e poi cominciano gli assoli. Vi prego di notare una cosa molto importante. Fate un piccolo sforzo d'orecchio. Nei temi che abbiamo sentito fin qui, quasi sempre il sax e la tromba vanno all'unisono, non nei pezzi di Silver. Sono solo due strumenti, la tromba e il sax tenore. Ma sentite quanta varietà di movimento. Per esempio, fin dall'inizio sentirete la tromba che fa la melodia e il sax che fa il contrappunto. La mano sinistra del pianoforte che va insieme al contrabbasso, la batteria che ogni tanto si ferma. Altre volte i due strumenti vanno insieme, il sax e la tromba, i due fiati, si accoppiano, poi si separano. C'è una ricchezza, sembrano 4-5 strumenti, invece sono solo 5. Sentite, sono solo 2, volevo dire, i fiati. Sentite quanta ricchezza. Cominciamo dal tema. Il sax contrappunta. Insieme. Uguale. la ritmica si ferma. Tromba e sax vanno insieme. Cominciano gli assoli uno dopo l'altro. Avete sentito che respiro? Quasi sinfonico, tanto è ampio, tanto è complesso. Voglio darvi un'idea anche di come Silver costruisce gli interi pezzi su strutture semplicissime, come per esempio il blues, il caro vecchio blues. E questa volta ci ascoltiamo un brano più breve, ma per intero finalmente. Il brano si intitola proprio con un titolo molto blues, Me and My Baby, 1960, un classico quintetto hard bop, con musicisti che vengono come Roy Brooks, il batterista per esempio da Detroit. Lo ascoltiamo insieme e vi faccio vedere la struttura passo passo. Troverete in corsivo le parti che sono state scritte e in tondo le parti che invece sono improvvisate. Guardate quanta musica scritta c'è. C'è anche una sezione verso la fine che vi devo spiegare che si chiama special. Cos'è lo special? È un termine tecnico che indica un episodio in cui il compositore scrive una variazione. Cioè, invece di improvvisare delle variazioni, lui le scrive. Di solito questi special, cioè delle variazioni scritte, vengono messe verso la fine del pezzo, prima della fine. Noterete anche che l'introduzione viene ripetuta alla fine, prima della ripresa del tema. Quindi non solo è proprio all'inizio del pezzo, ma anche in mezzo, poco prima della fine. Questo è Me and My Baby. Così, così. Sentite la ritmica, quante variazioni fa. Siamo un po'. Thank you. fanno il lancio. Scritto. Formidabile, dura 5 minuti ed è un'architettura incredibilmente complessa, fatta solo con 5 strumenti. Prego, è irrituale, ma facciamo un'eccezione. No, si figura. No, è tanto per sottolineare. La... Dica, prego. Sì, quel tema, sì, come respiro, volevo dire, sì. Ah beh, non so, io dicevo sinfonico, adesso c'ho Brahms nelle orecchie perché prima lì nel negozio di Lib, nella libreria, c'era Brahms in sottofondo, ma quando dico sinfonico dico semplicemente, ecco, una cosa più romantica, Schubert o Brahms o Schumann, cioè con frasi molto lunghe, non citerei Beethoven, ecco, che invece lavora più su frammenti brevi. Come, scusi? Delle? Non ho capito. Sì, sì, certo. Allora, niente, l'altro gruppo che vorrei farvi ascoltare è il gruppo dei fratelli Adderley, che venivano da tutt'altra parte, dalla Florida venivano, non dal nord ma dal sud. In particolare Julian, quello giù, il sax contralto, innanzitutto suonava il sax contralto e non il sax tenore, e questa già era una novità rispetto alla tendenza dominante dell'epoca. Si accompagnava sempre col fratello Nathaniel Adderley, che suonava ora la cornetta, ora la tromba. Julian in particolare, che data la stazza cominciò a essere pubblicizzato come Cannonball, palla di cannone, era proprio, voglio dire, una strategia pubblicitaria. Sui dischi c'è scritto Cannonball Adderley. Fu salutato quando arrivò a New York nel 1955 come il nuovo Charlie Parker. Charlie Parker era appena morto, arriva questo giovane, giovanissimo sassofonista, 22 anni, così molto, molto dotato, e viene salutato come il nuovo Parker. I fratelli Adderley fonderanno un quintetto che studieremo tra poco perché è molto importante per un certo tipo di linguaggio dell'art bop, però io volevo farvi vedere un breve filmato invece del gruppo che condussero dai primi anni 60, che era un sestetto con tre fiati. Tra l'altro dentro questo sestetto, che sarà lo stesso Adderley a presentarci insieme a Bill Cosby, che è il presentatore del programma televisivo, questo sestetto aveva al pianoforte, a proposito di talent scout, un giovane pianista austriaco di origini rom, in realtà la nonna era una rom, che si chiamava Josef Zawinul e che diventerà poi, come sapete, un personaggio chiave della musica del secondo Novecento. Questo è il filmato del sestetto, loro fanno un brano che si chiama Jive Samba, all'epoca non aveva ancora un titolo, come dice lo stesso Adderley, che tra l'altro qui non si vede, ma era un chiacchierone simpaticissimo, cioè i suoi concerti erano sempre delle conferenze, cioè li parlava col pubblico. Tra l'altro è stato un personaggio importante Adderley, perché a un certo punto si è proprio dedicato alla divulgazione del jazz e delle musiche nere. Before we continue, could we meet the rest of the sextet, please? Surely. We're quite proud of our array of jazz talent. For instance, our pianist is an Austrian. His name is Joe Zawinul. Our bass player is one of the great ones, everybody's favorite, Sam Jones. Sam Jones. Our drummer is also one of note. People are copying his style all over. Louis Hayes. Che veniva da Detroit. My brother Nat Adderley is our brass section, and what can I say about that, you know? It's another thing. Like collaborator. Un altro di Philadelphia. And of course, one of the more creative musicians in all of jazz is our newest member, Yusef Lateef. Thanks very much, Kenneth. What's the next number going to be? The next number is based on that new Brazilian thing, the Bossa Nova. Yeah. But we don't have a name, so we've stolen a thing from Jules Verne and just called it Bossa Nova Nemo. Wonderful. Bossa Nova Nemo. Bossa Nova, no name. Let's hear it. La Bossa Nova andava di moda all'epoca e nessuno si sottraeva. Thank you. Una dei filoni più affascinanti dell'art bop è quello del cosiddetto soul jazz. Cos'è? È che lo stesso Horace Silver, a metà degli anni 50, è uno di quelli che comincia a scrivere dei brani che si ispirano apertamente al folklore dei neri, degli schiavi, per esempio. Cioè al folklore dei neri statunitensi un secolo prima. Come se andassero alla ricerca delle radici, termine su cui avremo da discutere dopo, alle radici della musica nera. Fa parte di questa affermazione di una nuova cultura nera opposta alla West Coast bianca. È come se i musicisti dicessero: voglio riaffermare l'autenticità di questa musica nera e per farlo vado ad attingere direttamente al grande folklore del passato. Ecco allora apparire una serie di pezzi che evocano il gospel, che evocano il blues, che evocano i canti di lavoro degli schiavi, che evocano gli spiritual. Ed ecco anche dei titoli, come per esempio quello che forse è il primo pezzo di soul jazz, che si intitola The Preacher di Horace Silver, di cui vi faccio sentire il tema, che è una specie di spiritual gospel ispirato al folklore, tradotto in jazz, cioè c'è il tema che sembra un pezzo del folclorico e poi ci sono gli assoli invece in stile hard bop tradizionale. Il punto è: perché io parlo di tradizione inventata? Cosa vuol dire tradizione inventata? Prima di rispondere, sentiamo come il tema di The Preacher è giusto il primo frammentino con l'assolo di, se non ricordo male, di Kenny Dorham. Forte fa il battito delle mani. Poi diventa pop. Eccetera. Come sentite, c'è questo richiamo al folklore, ma questo richiamo al folklore è a un folklore autentico realmente esistito? Quanto ne sapeva Horace Silver o questi musicisti? Quanto ne sapevano del folklore nero di quegli anni, dell'Ottocento? In realtà ne sapevano poco. La loro ispirazione, l'idea di rifarsi alle origini della musica nera, non è la musica nera del passato, ma invece una sintesi musicale nuova che sembra, come dire, legata al passato, ma è una cosa completamente nuova. E questa cosa completamente nuova ha un nome e cognome. È Ray Charles, che in quegli stessi anni stava, in maniera geniale e innovativa, mettendo insieme una sintesi di due generi apparentemente lontani. Da un lato il profano, perfino grossolano e volgare, rhythm and blues, musica da ballo, greve, sessualmente esplicita. Dall'altro la musica sacra, il gospel, che però con rhythm and blues condivideva un certo andamento ritmico molto energico, una vocalità molto esplicita, molto fisica, e Ray Charles aveva messo insieme i due generi, stava mettendo insieme. Tanto per ricordarci le prime battute di I Got a Woman, uno dei suoi primi successi, in cui mette insieme queste due cose. Sentite com'è simile al clima di The Preacher. Well, I got a woman way over town that's good to me. Gli accordi sono quelli del gospel. Say, musica da ballo. Good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. In altre parole, la tradizione inventata cos'è? Una cosa che succede spesso in storia, nella storia. È un'espressione inventata creata dagli studiosi Eric Hobsbawm e Terence Ranger, che hanno scritto un libro che si chiama Le tradizioni, sulla tradizione inventata. E cioè quando io mi invento un passato per legittimare quello che sto facendo, per dare un senso storico a quello che faccio oggi. Ma questo passato in realtà è un'invenzione recente. In politica, anche italiana, ne abbiamo avuto esempi, come sapete, con le ampolle, il Po e altre pacchianate del genere, ma anche prima, certamente, per non parlare sì, dei legami fra l'impero e il fascismo con questo tipo di tradizioni inventate. È un fenomeno che in realtà è molto diffuso con la tradizione inventata, ce ne sono anche per esempio nel mondo culinario, in cui ci inventiamo delle cose che sembrano appartenere a chissà quale passato e invece sono invenzioni recenti. Quindi però a noi interessa capire, attenzione, questo punto chiave, che i musicisti neri cercano un rapporto con la tradizione e non conoscendo, non avendo documenti all'epoca particolarmente chiari ed evidenti su cos'era questa tradizione, si affidano a una idea diversa di passato, come quella per esempio che sta creando lo stesso Ray Charles. Ci sono una serie di esempi che voglio farvi vedere molto rapidamente di come si inventa una tradizione. In particolare Horace Silver è molto abile in questo, ma lo fa, non pensate in cattiva fede, come dire, è invece un modo diverso di reinterpretare il passato. Per esempio, intitola un pezzo con un titolo tipicamente gospel, Sister Sadie, sorella Sadie, e il pezzo ha un carattere sfacciatamente gospel. Sventuratamente Sister Sadie non è un pezzo gospel, è la rielaborazione di una canzone leggera, di pop, della fine degli anni 30, che si intitola Do You Wanna Jump Children, di Jimmy Van Heusen, di cui vi faccio sentire il tema cantato da Jimmy Rushing con l'orchestra di Count Basie, un disco che sicuramente Silver conosceva. Do you wanna jump children? Do you wanna rock children? If you wanna stomp children, one, two, three, start jumping with me. Do you wanna sing children? Do you wanna sling children? Have you had your fling children? One, two, three, start jumping with me. I've got trouble, you've got trouble, everybody got some. When they trouble, you kick your trouble to kingdom come. Do you wanna jump children? Do you wanna jive children? Feel that you're alive children? One, two, three, start jumping with me. È proprio la melodia di Sister Sadie, solo che è una canzone degli anni 30 rielaborata. Questo modo di elaborare materiale diverso per farlo sembrare più o meno moderno, più o meno tradizionale, è una fissa di Horace Silver. Per esempio, prendiamo un riff inventato dal vibrafonista di Detroit, Milton Jackson, che è una frase discendente tipicamente blues. Non è neanche una sua invenzione, la tipica frase blues su cui ha scritto un tema che è diventato molto popolare, Beggs Groove. Sentite come fa. Tutto qua. Thank you. se prendo questo riff e lo suono molto velocemente, invece molto velocemente, ottengo una frase che sembra un blues bebop di tipo tradizionale e moderno. È quello che fa Silver in Stop Time. Prende la stessa frase e la suona veloce. Poi ci mette un tocco di gospel. Do you want a jump children? E poi la frase. Eccetera. Se invece prendete la stessa identica frase e la suonate lentissima, ottenete un'atmosfera africana. Identica, eh? Non sto dicendo che Silver è in malafede o è un manipolatore, vi sto mostrando come il rapporto con la tradizione sia molto dinamico e sia pericoloso parlare sempre di radici africane della musica. Senti come evoca l'Africa, qui non evoca l'Africa, qui sta usando una frase blues manipolata adeguatamente per far suonare questa cosa molto esotica. Quindi bisogna stare molto attenti, e questo è un aspetto caratteristico, come vedremo, del mondo afroamericano, questo rapporto dinamico e ambiguo con la tradizione, compresa anche quando si tratta di una semplice canzonetta. Di questo filone del soul jazz, che è uno dei più vitali dell'hard bop, il rappresentante più straordinario è stato un grande pianista e compositore che abbiamo prima ascoltato al pianoforte nel quintetto di Art Blakey, Bobby Timmons. Timmons suonò sia con Art Blakey sia con Cannonball Adderley. Fu l'architetto di entrambi i gruppi e ha scritto alcuni dei temi più straordinari dell'hard bop. Uno in particolare, di nuovo sentiamo un'esecuzione parziale perché il brano è molto lungo, forse uno dei più famosi di Timmons, è un brano che suonò con il gruppo di Cannonball e di Nat Adderley, che si chiama This Here, questo qui. E, tra l'altro, Cannonball in questo live a San Francisco lo pronuncia in dialetto, dice, come un dialetto meridionale, come a certificare che è musica folk. In realtà Timmons era molto scaltro, molto abile, e sentite che lui usa una melodia che richiama il folklore degli schiavi, ma su delle armonie bop molto sofisticate. E la fusione di questo elemento sofisticato con la melodia degli schiavi è molto affascinante. In più utilizza un tipo di andamento ritmico che in quell'epoca era inconsueto, il valzer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, che dà un effetto un po' gospel, un po' caracollante, un po' di danza e un po' no, che è molto singolare. Il pezzo infatti ebbe un successo enorme per la sua bellezza. Molto folk. Poi si fa sofisticato. Piano. melodia è semplice, l'armonia no. Che non vuole molto viscerale poi lo stesso assolo. Lo ascoltiamo. Poi diventa bop quando l'armonia si fa più complessa. E ritorna blues. Traboccante di idee. Il brano continua con gli altri assoli, è bellissimo. Questo genere di hard bop, il soul jazz, che tra l'altro intorno a cui gravitavano altri termini come funky, per esempio, che vuol dire puzzolente, ma nel senso appunto di una musica più greve, più viscerale, ebbe un notevolissimo successo, un grande successo di pubblico, e aiutò i musicisti di jazz a sopravvivere in un momento difficile, connettendo da un lato il jazz più elitario, ma dall'altro il rhythm and blues e il soul, che erano invece più pop. In un certo senso erano riusciti a far quadrare i conti, mantenere l'integrità dell'improvvisazione e della spontaneità improvvisativa insieme a un tipo di clima che piaceva molto a un pubblico giovanile che invece magari seguiva Sam Cooke o Aretha Franklin o Ray Charles. Tant'è che noi abbiamo una sfilza di grandi pezzi di soul jazz, qui non abbiamo il tempo di ascoltarli, però volevo elencarvi qualche titolo particolarmente bello. Senior Blues addirittura uscì come una specie di 45 giri, anche in versione più accorciata. Qui ci sono appunto alcuni titoli. Lo stesso Nat Adderley, per esempio, ha scritto un pezzo importantissimo che si chiama Work Song. Zawinul, il nostro austriaco, ha scritto uno dei pezzi soul, a proposito di tradizioni inventate, cioè un austriaco rom che va a scrivere uno dei pezzi soul di maggiore successo in assoluto, che è Mercy, Mercy, Mercy. Shorter ne ha scritti diversi, lì cito One by One, c'è il bellissimo Death Dare di Timmons. Anche Herbie Hancock, nel suo primo disco da leader, incide Watermelon Man, che è un classico pezzo di soul jazz, fin dal titolo, perché Watermelon, l'uomo del melone, del cocomero, è uno stereotipo del nero ottocentesco del minstrel. E Lee Morgan, che avevamo ascoltato con Art Blakey in Blues March, imbrocca nel 64 un successo pazzesco con questo The Sidewinder, che sta a metà fra ritmi rock, rhythm and blues e jazz, che lo fa diventare improvvisamente ricco. Sono solo alcuni esempi, ma il pezzo di soul jazz più famoso in assoluto lo ha scritto Bobby Timmons, sempre, e lo ha scritto per i Jazz Messengers di Art Blakey nel 1958, per un album omonimo che è appunto Moaning, che dà anche il titolo alla nostra conferenza. È un pezzo su cui, pensate, esistono perfino delle barzellette fra jazzisti, che non sto a raccontare perché non fanno ridere, e ha proprio gli elementi basilari del soul jazz, la melodia folk, pseudo-folk. Questa è la melodia con il coro, che in realtà è fatto dal pianoforte, che risponde... No? Eccetera. Poi perché devo suonarla io, visto che adesso la sentiamo suonata dagli autori? Era solo per far risaltare il contrasto, diciamo così. Naturalmente, attenzione, come negli altri pezzi di Timmons, come This Year che abbiamo sentito prima, c'è una parte molto folk, che è quella che vi ho appena accennato, e c'è una parte molto bebop, con questi accordi che si muovono, cromatici, più complessi, più sofisticati, e quindi c'è la stessa dialettica fra una parte più complessa e una parte più pseudo-folk. Art Blakey è magistrale nel mantenere questo ritmo cosiddetto shuffle, che da un lato vorrebbe evocare i canti di lavoro, dall'altro è radicato evidentemente nel rhythm and blues e nelle danze contemporanee. Noi ci ascoltiamo, ci vediamo, diciamo, i primi minuti, anche qui l'esecuzione è molto lunga, non del disco famosissimo, dove c'è dentro anche Blues March, ma in un concerto di un tour europeo, questa è la serata di Rotterdam nel 58, vedrete il ventenne Lee Morgan, Benny Golson, che abbiamo sentito anche prima, al sax tenore, l'autore del pezzo Bobby Timmons al piano, Jimmy Merritt al contrabbasso e il magnifico Art Blakey alla batteria. Botta e risposta come nel gospel. Sofisticata. eccetera. E lo so, qualcuno dice no, ma non ascoltiamo il comunque lo trovate su YouTube. Non ascoltiamo Mingus, ma vi metto la copertina per andare verso la conclusione della conferenza di questo disco, perché c'è una parola chiave: roots, blues and roots, blues e radici. Ecco, in genere la retorica delle radici vuole che attingendo alle radici si attinga a qualcosa di autentico, no? Si attinga a qualcosa di primigenio, alla verità, alla fonte di ciò che è giusto e vero. Ma facciamo attenzione, perché la retorica delle radici è una retorica pericolosa, perché le radici si possono anzitutto inventare, come avete visto, e quindi si attinge a un passato che non è necessariamente quello che si immagina o che si vorrebbe che fosse. E poi la parola radici, che all'epoca cominciò ad andare molto di moda ed era legata anche ovviamente al movimento dei diritti civili dei neri, che rivendicavano una presenza forte nella cultura americana, giustamente, quindi, come dire, noi siamo radicati in questa cultura, anche se voi bianchi ci escludete, ci rifiutate, ci marginalizzate, in realtà noi non siamo sradicabili. Però poi questa parola è diventata col tempo, non in quegli anni, ma col tempo, diciamo una specie di parola passepartout ideologica che è servita a diciamo che ha un po', no, che è servita, che ha un po' impoverito l'idea di passato del jazz. Le radici in fondo per definizione non sono dinamiche. Sì, forniscono linfa all'albero, ma non cambiano, non sono il risultato di un processo. Sembrano essere sempre state lì, uguali a se stesse, ferme. Invece la storia non è mai radice, la storia non è mai, il passato non è mai fermo, il passato è sempre il risultato di processi, di movimenti anche contraddittori, quindi bisogna stare attenti all'uso di radici. Andando alla conclusione, non vorrei lasciarvi con l'idea che l'hard bop sia stato esclusivamente una musica con una forte componente blues, una forte componente di danza, una forte componente viscerale, come abbiamo sentito poc'anzi in Moaning. C'è una componente lirica bellissima nell'hard bop, di disegno melodico caldo, cantabile, avvolgente, che si esprime soprattutto in certe composizioni di Benny Golson. E vorrei approfittare per farvi sentire anche un gruppo che ha avuto una vita breve, purtroppo, nel corso del periodo dell'hard bop, che va dalla metà degli anni 50 alla metà degli anni 60. Loro furono attivi nei primissimi anni 60, era il Jazztet, diretto di nuovo da Benny Golson con il trombettista Art Farmer. Qui un sestetto, come quello di Art Blakey, cioè col trombone, quindi con un suono più ricco, e voglio farvi sentire per intero Whisper Note, che è un brano che suonavano anche i Messengers, una composizione di Benny Golson, dove questa idea di lirismo è ridotta all'osso, perché è tutta un'idea di due note. Tari, taran, taran, tararan, e poi con dei tocchi blues. Una delle cose più belle di Whisper Note che vi farò notare è lo special, cioè quella parte di variazione scritta che si trova verso la fine. Golson la scrive in tempo di marcia, come se fosse una versione più lirica di Blues March. È uno di quei tocchi magnifici, composti, compositivi, non solo improvvisativi, dell'hard bop. Alziamo un po'. Thank you. Quando finisce cronologicamente l'hard bop? In realtà non finisce, si trasforma. Convenzionalmente la metà degli anni 60 sono considerati un momento di spartiacque da questo punto di vista. Contemporaneamente a questa musica c'era la rivoluzione di John Coltrane, c'era il free jazz di Ornette Coleman. L'hard bop sembra impermeabile a queste rivoluzioni, anche se qualcosa si sentiva per esempio in Ugetsu di Cedar Walton, ma comincia a trasformarsi intorno alla metà degli anni 60 e inizia una nuova fase che poi porta agli anni 70 in quello che viene chiamato il nuovo hard bop, fino agli anni 80, pensate per esempio ai primi dischi di Wynton Marsalis, quando suonava appunto in quintetto in uno stile hard bop contemporaneo. Cioè una musica che comunque si è trasformata, si è evoluta. Faccio un nome su tutti, per esempio quello di Woody Shaw, un'altra scoperta peraltro, in questo caso di Horace Silver, non di Art Blakey. Concluderei con appunto un'apertura sul contemporaneo. Jackie McLean, sax contralto, che nei primi anni 60 incide una serie di album per la Blue Note. Tra l'altro non l'ho detto, ma due terzi, forse quattro quinti dei brani che abbiamo ascoltato vengono tutti da dischi della Blue Note, che è l'etichetta che si fa carico di documentare in maniera sistematica tutte le correnti dell'hard bop, con la classica grafica Blue Note che poi divenne insomma, inconfondibile. Nel 1963 McLean registra un album, lo vedete, con il trombonista Gretchen Moncure, che abbiamo ascoltato un attimo fa, il vibrafonista Bobby Hutcherson, il bassista Larry Ridley e il batterista Roy Ames, sono scritti un po' piccoli sopra il titolo, e tra le altre cose suonano un pezzo di Moncure. Perché vi faccio sentire due minuti di questo disco? Perché questo disco, come altri dischi di McLean di quel periodo, di questo sax contralto, hanno ispirato uno dei maggiori jazzisti contemporanei, Steve Lehman. Cioè l'idea di avere un sax contralto che è apparentemente un po' stonato, l'idea di avere il vibrafono, l'idea di avere una ritmica che lo sentirete, che non è più giocata sugli equilibri delicati di Horace Silver o di Benny Golson, ma è tutta fatta molto frammentata, piena di stop, ha alimentato il jazz contemporaneo. Ascoltiamo questi due minuti e facciamo una considerazione conclusiva. Thank you. Il bebop ci mette davanti a questa domanda: che cos'è l'innovazione, che cos'è la tradizione? Noi abbiamo come cultura occidentale, musicale occidentale del Novecento, un concetto di innovazione molto radicale. Se guardate come viene raccontata la storia della musica del Novecento, è tutta una affannosa ricerca, spesso con grande successo anche musicale, di novità nuove, radicali, la dodecafonia, la atonalità, le ricerche ritmiche, la seconda scuola di Vienna di Boulez, Stockhausen, le tecniche inedite, l'esplorazione del rumore, l'esplorazione del silenzio. È tutta una ricerca di qualcosa di nuovo, il disvelamento di qualcosa che non si è mai ascoltato prima, addirittura cercando di fare piazza pulita del passato. C'è uno storico della musica che ha scritto, dice, la storia della musica del Novecento sembra uno spogliarello, scopri questo, scopri quello, scopri quell'altro. Nel jazz funziona in un altro modo. Nelle culture afroamericane c'è un rapporto dinamico con la tradizione, l'avete sentita, che può essere inventata, come nel caso del soul jazz, può essere reale, può essere adombrata come in quest'ultimo pezzo che sembrava complicatissimo, in realtà sotto ci sono delle strutture blues, a saperle, tutte le frasi sono di 12 battute come un blues. E lo stesso McLean, l'avete sentito, più la ritmica è tesa e frammentata e più lui suona il blues sopra. Cioè non è importante l'innovazione in sé, ma è il rapporto dialettico tra l'innovazione e la tradizione. Cioè io non faccio un'innovazione per sé, io prendo la tradizione e la releggo in una maniera nuova. E quindi la tradizione è sempre presente, nel senso del tempo proprio, del tempo presente. Non è qualcosa del passato a cui attingo. È una realtà vivente che si mescola con le necessità del linguaggio contemporaneo. E come dice una formula di alcuni amici che hanno una rassegna importante a Firenze, tradizione in movimento la chiamano, è tradizione vivente, è dialettica. E se ci pensate, in un momento come questo, avete questa concezione della storia, del rapporto fra passato e presente così dinamico, ci può ancora essere utile. Grazie.